È una serata speciale e io voglio ricordarvi, vorrei partire da questo, quello che c'è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 12. Lì c'è scritto che a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio. Quindi per collegarmi anche a quello che diceva Gianluca, il Vangelo di Giovanni lo mette in chiaro sin dall'inizio che essere figli di Dio è un diritto che ci è dato in Cristo Gesù. Se tu ricevi Cristo Gesù nella tua vita, tu ricevi con Cristo Gesù il diritto di diventare figlio di Dio. Ed è una cosa meravigliosa, non dobbiamo darla mai per scontato, perché siamo famiglia per questa ragione. Non perché ci incontriamo, non perché ci vogliamo bene, noi siamo famiglia, perché la Bibbia dice che siamo la famiglia sua, la famiglia di Dio, e lui è il padre, noi siamo i figli, e questo di conseguenza ci porta ad essere fratelli e sorelle, sotto un vincolo davvero speciale di appartenenza e di intimità. Ora, ogni padre buono, quanti padri abbiamo questa sera? Posso vedere la tua mano se sei un papà? Che bello! Ci sono padri più giovani, padri un po' più anziani. C'è qualche nonno in mezzo a noi? Padre di padri? Facciamo un applauso ai nonni che abbiamo in mezzo a noi, meraviglioso. Vedete, ogni padre buono su questa terra vuole per i propri figli che essi crescano, giusto? Ogni padre buono vuole per i propri figli che loro vadano di bene in meglio, nella loro crescita. E noi leggiamo che questo è il desiderio, è il cuore del nostro Padre Celeste. Lui vuole per noi suoi figli che noi cresciamo di gloria in gloria. E le ultime 3 settimane abbiamo passato del tempo bellissimo insieme, dove abbiamo parlato proprio del passaggio di gloria in gloria, da un livello di gloria al livello di gloria successivo. Perché Dio non vuole che tu rimani dove sei. Perché non sta bene a un padre buono che i propri figli rimangano dove li ha incontrati, ma lui vuole portarti in un processo, in un percorso progressivo che va di gloria in gloria, sempre più belli, sempre più splendenti, sempre più pieni di vita. Questo è quello che Dio vuole per te. E questa sera noi andremo a fare qualcosa di diverso, perché andremo, come vedrete, abbiamo degli sgabelli, ad ascoltare delle storie, delle testimonianze che riprendono un po' tutti e 3 i messaggi che abbiamo condiviso qui la domenica. Abbiamo parlato della gloria della rinuncia, che il passaggio da una gloria all'altra passa attraverso la rinuncia. Parleremo della gloria delle battaglie, perché Dio ci permette di vivere delle battaglie per renderci sempre più forti e valorosi in fede. Abbiamo parlato della gloria della maturità, di scegliere di essere maturi, perché Dio non vuole che noi rimaniamo dei bambini che si cibano ancora di latte. Quindi vogliamo fare un grosso applauso e voglio invitare Giulia, visto che ce l'abbiamo, sfruttiamo la sua presenza, Mario e Anna. Un forte applauso a loro che si accomoderanno con me. L'abbiamo già fatto questa mattina ed è stato davvero speciale, molto bello. Giulia, noto che il colore del tuo vestito è identico al colore dello sgabello. È incredibile, sei stata profetica nella scelta della collana e del vestito. Non l'avevo notato stamattina, ma stasera sì. Ora, io vorrei che questa sera, per quanto sarà bello, sarà piacevole poterci fare questa conversazione insieme, io vorrei che nessuno di voi prenda con superficialità le parole che ascolterà. Perché vedete, quello che stiamo facendo questa sera è molto in linea con quello che la parola di Dio ci insegna. La parola di Dio ci insegna che noi cresciamo attraverso il confronto. La parola di Dio ci dice che noi non cresciamo solo perché abbiamo delle informazioni e magari un insegnamento costante da un pastore, ma la parola di Dio ci mostra che la Chiesa cresce attraverso l'edificazione reciproca e attraverso il confronto. Ve lo voglio mostrare, c'è scritto in Filippesi al capitolo 3 dal versetto 17 ed è l'apostolo Paolo che dice a questa chiesa, ai Filippesi appunto: siate miei imitatori. C'è una gloria nell'imitare. Se imiti dei buoni uomini e delle buone donne di Dio, tu cresci. C'è una crescita in questo. E per questo l'Apostolo Paolo dice: siate miei imitatori. Non era arrogante, non era orgoglioso, ma sapeva che aveva vissuto un percorso tale di progressione, di gloria in gloria, da poter essere d'esempio ad altri. E qui ci possiamo chiedere: siamo noi d'esempio ad altri? Perché questo è quello che Dio ci chiama ad essere. E poi aggiunge: e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Guardate, osservate altre persone, non solo me, ma osservate fra di voi, nella Chiesa, tutte quelle persone che camminano secondo il nostro esempio quali apostoli, e il nostro esempio quali ministri. Tu hai la possibilità di imparare qualcosa da ognuno. Questo è un insegnamento che io ho avuto da mio padre. Papà ha sempre detto: puoi sempre imparare da ogni persona. Puoi imparare dagli esempi positivi, puoi imparare ovviamente dagli esempi negativi. Dagli esempi positivi a fare la stessa cosa, dagli esempi negativi a non fare gli stessi errori. Nella Chiesa tu hai l'opportunità, e Dio ti invita attraverso la sua parola questa sera a osservare esempi positivi e chiederti come posso imitare il loro percorso e crescere di gloria in gloria. Se lo fai, crescerai. Se lo fai, sarai quella persona che passerà da un livello all'altro. Se hai difficoltà a farlo, c'è un problema di orgoglio. Se hai difficoltà a confrontarti con altri, a imparare dall'esperienza di altri, è perché probabilmente credi di sapere già tutto, credi di essere autosufficiente e credi di poter vivere il tuo percorso di vita in una maniera separata dagli altri, individualista, e questo non va bene. Per questo Dio istituisce la Chiesa. Se noi siamo qui questa sera, non è solo perché abbiamo l'opportunità di avere un bel gruppo di lode che ci guida a cantare dei canti. Non siamo qui questa sera solo per guardare tutti lo stesso schermo e leggere gli stessi versi. Siamo qui questa sera perché siamo famiglia. E quando questo incontro si chiude, la Chiesa non si ferma, anzi inizia proprio lì. E nel confronto, nel paragone, nell'incontrarci, nel parlare, nel sentire l'esperienza di altri, abbiamo la possibilità di crescere. Quindi vi va di sentire la storia di Giulia, almeno qualcosa da parte sua? Naturalmente Giulia non può far altro che ricordarci il messaggio ultimo del lettino, ve lo ricordate? La gloria della rinuncia. C'era il verso di riferimento che era appunto, erano le parole di Gesù. Gesù disse loro, ai discepoli: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. E poi nel versetto 18 c'è scritto che essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. I discepoli hanno potuto abbracciare e vivere una vita gloriosa, lasciando l'ordinario, abbracciando lo straordinario, perché sono stati disposti a fare una rinuncia. Quindi la mia domanda a Giulia è questa: qual è la rinuncia più grande che tu hai vissuto e perché la rifaresti come scelta nella tua vita? Sì, ovviamente, come sapete, la rinuncia più grande che ho vissuto è stata lasciare l'Italia, lasciare la famiglia, lasciare la Chiesa, lasciare quello che conoscevo da molti anni per abbracciare, come ha detto il pastore, il soprannaturale, per abbracciare lo straordinario, per abbracciare quello che mi aspettava a chilometri da qui, che io non conoscevo, di cui non avevo mai sentito parlare, ma che mi stava aspettando. Mi stava aspettando perché il Signore l'aveva stabilito, anche se io non lo vedevo ancora, ma lui aveva già visto che quello era il piano che lui aveva per me. Per me rinunciare è stato investire in qualcosa che è eterno, in qualcosa che non si vede magari ancora, non vedo ancora il frutto, ma investire nel suo regno, rinunciare a quello che poteva essere il mio essere nella Chiesa qui, e investire in quello che la Chiesa che lui vuole costruire in Asia Centrale. E investire in termini di tempo, investire in termini di sacrificio, investire in termini di servizio. E pensavo proprio oggi a quando nel Vangelo viene descritta questa donna che versa tutto quello che aveva di più prezioso, ai piedi di Gesù, e lo versa. E le persone intorno dicevano: questo è uno spreco, lo vedevano come uno spreco, ma in realtà lei stava donando tutto. E questa è la rinuncia: donare tutto quello che di più prezioso abbiamo, qualsiasi sia quello che il Signore ti sta chiedendo, che sia una scelta che non sia, sai, lasciare tutto e andare all'estremità della terra, che sia una scelta quotidiana, che sia una scelta personale, ma questo è quello che ti chiede. Dai quello che di più hai, di più prezioso hai, ti chiede di donarlo e lasciarlo ai suoi piedi, anche se le persone intorno possono dire: per me questo è uno spreco. Però non è il modo in cui il Signore vede. Il Signore vede quell'offerta come il tuo donare te stesso a Lui, non come uno spreco. E questo per me è stata la rinuncia. È stata anche l'onore e la possibilità di servire un popolo meraviglioso. Mentre adoravamo, pensavo: Signore, ma io vedrò mai persone di quel luogo adorarti così, in questo modo, nella quantità di persone che siamo qui, in una sala del genere, anche in una sala diversa, però vedrò mai questo. E questo è il sogno per cui io voglio vivere oggi, scelgo di vivere oggi. È il sogno per cui anche voi avete investito in termini di preghiera, in termini finanziari. E non è solo il mio sogno, ma è anche il vostro sogno. E grazie per avermi aiutato a sognare in questo, a sognare in grande. La seconda domanda? La seconda domanda è: lo rifaresti? Perché? Cioè, qual è, ne vale la pena? Sì, ne vale la pena. Ne vale la pena anche nel vedere poche persone avvicinarsi a Cristo, però anche per una ne vale la pena. Adesso sto seguendo due ragazze che stanno cominciando ad approcciarsi alla parola, e per questo ne vale la pena. Ne vale la pena lasciare tutto quello che ho qui, a cui sono legata, che amo profondamente, ma vedere anche solo due persone, due cuori, avere la possibilità di avvicinarsi alla luce, di essere trasformati, ne vale la pena. E ne vale la pena vedere anche la trasformazione che il Signore sta facendo nei cuori dei miei genitori. Ne vale la pena. E ne vale la pena anche quando tu pensi che le cose possano andare in maniera diversa, perché io pensavo: io sto lasciando i miei genitori, ma loro non conoscono Gesù. Li sto lasciando, però il Signore ha provveduto a poterli incontrare, a poter essere il cibo per le loro vite. E quindi ne vale la pena. Ne vale la pena anche quando non lo vedi, ne vale la pena perché il Signore vede il tuo cuore, vede l'intenzione del tuo cuore e agisce di conseguenza. Grazie, meraviglioso. Ne vale la pena perché lasci l'essere pescatore di pesci, quindi lasci quello che può essere una vita concentrata dei guadagni terreni per essere pescatori di uomini, quindi abbracci la possibilità di avere dei guadagni eterni, anime strappate dall'inferno e portate all'eternità. Io credo che questa è una cosa che noi dobbiamo ricordarci. Dio ci chiama a lasciare la nostra barca, a lasciare le nostre reti, ma non perché ci vuole derubare di determinati piaceri, ma perché ci vuole invitare a dei piaceri più grandi, più gloriosi, di peso, di spessore eterno. E quando saremo in cielo avremo l'opportunità di gioire per l'eternità di ogni dono che vedremo lì e che Dio ci avrà dato la grazia di poter contribuire a portare nel regno dei cieli. Quindi vogliamo fermarci un attimo, perché io credo che sia bello in questo momento pregare e presentare le nazioni, presentare questo mondo che vive nelle tenebre, perché noi siamo la luce in questo mondo e abbiamo l'opportunità di credere che attraverso ognuno di noi, non solo Giulia, attraverso ognuno di noi Dio vuole portare altre persone a vivere salvezza. Quindi fallo con me, alza le tue mani, vogliamo pregare un attimo per la terra nella quale noi viviamo. Padre, noi preghiamo per questo mondo, sappiamo che il principe di questo mondo è Satana, ma tu sei il re del regno eterno, e tu vincerai. E noi, Padre, preghiamo affinché in questo tempo, in questo soggiorno terreno che noi viviamo, abbiamo l'opportunità di vivere per una causa più grande, che noi possiamo uscire fuori dal lettino per calpestare quei territori nuovi, per rischiare tutto, per vedere anime strappate dall'inferno e trasportate nel tuo regno. Signore, noi benediciamo Giulia e ti chiediamo di dare a lei nuove forze, ti chiediamo di servirti di lei potentemente per portare luce nel posto nel quale tu l'hai chiamata. Ma io voglio pregare per ognuno di noi anche. Padre, rendici luce nei posti di lavoro, rendici luce nei condomini nei quali noi viviamo, nei quartieri, nei paesi nei quali viviamo, rendici luce che porta salvezza a altre persone. Fai di noi pescatori di uomini, lo prego nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen, amen. Abbiamo parlato della gloria della maturità, meraviglioso. C'è questo passo che abbiamo preso in considerazione in Ebrei, dove di fatto è un rammarico quello che esprime l'autore. È un rammarico perché sta facendo un discorso di un certo peso e poi arriva a rammaricarsi perché non può andare avanti in questo discorso, perché sa che gli interlocutori, i lettori che leggeranno quella lettera sono ancora dei bambini che hanno ancora bisogno di latte spirituale. E dice: questo non va bene, perché voi siete chiamati ad essere uomini adulti. E poi aggiunge in Ebrei 5 dal versetto 11: ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso, per quelli cioè che per via dell'uso della parola hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Questo è quello che Dio vuole per noi, non bambini ma adulti, non degli alunni ma degli insegnanti. Questo abbiamo visto qualche domenica fa, e c'è una gloria che io credo che noi tutti siamo invitati ad abbracciare, ed è una scelta quotidiana, quella di crescere nel cibo spirituale, crescere nel cibarci di cibo solido, non più di solo latte spirituale, ma di cibo solido, e scavare di più nella parola. Io ho chiesto a Mario di dare la sua testimonianza perché vorrei che noi comprendessimo qualcosa di molto importante, già solo con la sua presenza qui sul palco, che quando parliamo di maturità non stiamo parlando di età. Non è che se sei più anziano, di conseguenza sei più maturo spiritualmente. Ci sono delle persone anziane che sono stolte, che non vivono secondo la parola, che non insegnano la parola e non hanno discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male. Poi ci sono persone giovani, estremamente giovani, che hanno padronanza della parola di giustizia, come c'è scritto qui in questi versi, e si dimostrano essere maturi. Io sono grato a Dio perché Mario è un esempio di un ragazzo che ama essere maturo, che ha scelto sin dall'inizio di abbracciare la maturità, di non rimanere in un territorio dove succhia ancora il biberon. Vi ricordate l'immagine? Lascia il biberon, era l'appello di quel messaggio, ma è un ragazzo che ha scelto di prendersi responsabilità, servire la Chiesa, cibarsi della parola ed essere un modello da seguire per tanti ragazzi, ma anche per tanti adulti. Quindi io lo onoro per questo. E forse lo conoscete e sapete che lui ha un'attività. E nel frattempo che cresceva spiritualmente portava avanti un'attività e si è sposato e ha fatto tante cose in tutti questi anni ed è andato di gloria in gloria. E quindi io voglio che tu ci dici come fai, qual è il tuo segreto e cosa ti rende così maturo. L'ho detto stamattina, posso lo riconfermo. Cioè, tu sei sicuro quello che mi stai dicendo? Hai visto che l'ho detto ancora con più forza, cioè, stasera? Perché sono ancora più convinto. Grazie, pastore. Io volevo iniziare davvero innanzitutto vi ringrazio per come mi fate sentire amato tutti quanti, però anche quello che tu dici, pastore, io davvero voglio rendere grazie al Signore per tutto quello che mi dà. Sì. Cioè, è il primo punto, il punto dal quale voglio partire. Tutto quello che sto vedendo nella mia vita lo devo alla grazia di Dio, che è abbondante su di me. È successo tutto, come dicevo anche stamattina, nel momento in cui ho iniziato a conoscere Dio, 7 anni fa. Come ho conosciuto Dio non è successo, non è stata una rivelazione istantanea, quindi non è stato in un attimo, ok, ho capito chi è Dio, lo voglio, lo desidero nella mia vita, ma è stato un percorso. Quando anche racconto della mia testimonianza, parlo sempre del fatto che ho aperto la Bibbia e ho iniziato a leggere, e mentre leggevo la Bibbia conoscevo sempre di più chi era Dio e chi era Gesù. Questo mi ha fatto capire davvero chi era Gesù. La preghiera è stato un passo successivo per me, però è sempre un'esperienza personale, quindi c'è chi si spinge più nella preghiera. Io attraverso la lettura della Bibbia ho conosciuto davvero Gesù, ho capito qual era la verità, e quella verità mi ha trasformato, e ricordo proprio, ho questo ricordo chiaro nella mia mente. Era l'aprile del 2012 quando ho veramente scelto per Dio, e quello che è successo è che, anzi, aprile 2013, 6 anni fa, ho proprio fatto la scelta radicale. Quello che è successo è che mentre leggevo ho capito davvero che ogni cristiano, quindi tutte le persone che scelgono di dedicarsi a Dio, devono abbracciare, devono prendere una responsabilità. Cioè, quello che ho compreso è che noi abbiamo un tempo limitato su questa terra, e che quel tempo non è solo per noi, non è solo per raggiungere i nostri obiettivi, i nostri scopi, i nostri piaceri, ma è un tempo che Dio ci dà la grazia di vivere per raggiungere determinati obiettivi. Uno è quello di portare il Vangelo a tutti, e il secondo importantissimo è quello di fare discepoli di Dio. Questo è quello che ho compreso, e questo da sempre, dal momento in cui io ho conosciuto Dio, è diventato il mio grande obiettivo di vita. Quindi tutto quello che poi è scaturito da questo, dopo quella scelta, quindi la scelta lavorativa, è tutto un canale, un percorso che io ho affidato a Dio, e ho scelto di mettermi molto spesso in posizioni scomode, quindi di scegliere di sposarmi quando forse non ero pronto ad essere un marito, e questo ha benedetto la mia vita con Nella. Ho scelto di crescere lavorativamente quando non ero pronto a farlo, e lì ho visto la mano di Dio operare. Ho scelto di prendere la responsabilità degli upside down quando probabilmente non ero pronto a farlo, eppure Dio mi benedice attraverso questi ragazzi, porta grandi benedizioni nella mia vita e mi permette di essere di benedizione. Penso che la lettura della Bibbia, il passare un tempo personale con Dio, trasformi ciascuno di noi, perché quello è stato una costante per la mia vita. Ci sono stati degli alti e dei bassi, sicuramente. Sarei bugiardo a dire è stato sempre tutto lineare, bello, ho letto ogni giorno la parola di Dio. No, ci sono stati dei momenti anche per me difficili. Però quello che ho scoperto, soprattutto negli ultimi anni, è che spesso noi ricerchiamo la perfezione, no? La perfezione di essere il marito migliore, di essere il padre migliore, di essere il responsabile migliore, il leader migliore, prima di prendere una responsabilità o prima di fare una cosa. Questa stessa cosa vale per il tempo personale con Dio. Spesso noi abbiamo l'ambizione di vivere un tempo personale con Dio che sia perfetto, che sia nella nostra stanzetta, con una candela, con la Bibbia, in silenzio, passare un'ora a pregare senza nessuno che ci disturbi. Questo è bellissimo per chi chiaramente ha la possibilità di farlo, ma ad esempio per me questo non è possibile, non è fattibile con il ritmo delle mie giornate, e perciò ho dovuto scegliere di togliere questa bugia dalla mia mente, di dire ok, un tempo con Dio è un tempo che io devo passare col Signore, io devo trovare il modo di passarlo. Quindi ho organizzato la mia giornata in modo tale da poter passare sempre un tempo con Dio, a seconda anche delle stagioni della mia vita. Ad esempio, qualche tempo fa io lo passavo il primo pomeriggio, quando ho conosciuto Dio. Dopo mangiato, prendevo la Bibbia, leggevo, scrivevo il mio diario, avevo un bellissimo tempo, molto anche lungo e profondo con Dio, perché proprio avevo quell'amore, no? Quel desiderio di sapere ancora di più di quello che già stavo sapendo. Successivamente è successo che sono passato dal pomeriggio alla sera, quindi la sera prima di andare a letto leggevo la Bibbia, pregavo. Ora quello che faccio, da quando ad esempio sono arrivati Jesus Revolution, quando abbiamo fatto quella settimana di digiuno delle 24 ore su 24, ce lo ricordiamo? Sì. Bellissimo. Io lì volontariamente ho scelto di scrivere il mio nome sulla casella che mi permetteva di passare un tempo personale dalle 5 alle 6 di mattina, perché io poi alle 7 sono a lavoro. Quindi cosa ho fatto? Ho scritto il mio nome e per questo periodo l'ho fatto dalle 5 alle 6 di mattina. Poi dico la verità, è arrivato questo caldo che mi ha tolto un sacco di energie ed è diventato molto pesante svegliarmi alle 5, non ce la faccio. Sono stanco, quindi cosa faccio? Mi sveglio alle 6, non riesco a passare un'ora, ne passo mezz'ora, però quella mezz'ora la dedico interamente a Dio. Perché Dio non mi punta il dito contro, non mi dice sei passato da un'ora a mezz'ora. Per Dio la cosa importante è che noi viviamo questo rapporto con Lui, di amicizia, di fratellanza, di sottomissione, di amore, dove non è importante il tempo, ma è importante quello che hai dentro. La tua responsabilità, quello che tu sai che devi raggiungere, perché quando tu abbracci la responsabilità di Dio non puoi far altro che nutrirti della sua parola e metterla in pratica. Infatti il mio piccolo metodo è questo, io evidenzio, poi c'è anche la distinzione di Bibbia cartacea o applicazione, e lì si crea, sai, sempre no, io non riesco a leggere da lì, ne sento tante di queste cose, io anche ne parlo spesso. E in realtà non è importante, va bene, forse ti rimane più impressa la Bibbia cartacea, forse l'applicazione, ma la cosa importante è che noi leggiamo la Bibbia. Io ad esempio evidenzio delle parole chiave, ad esempio oggi ho letto i proverbi 1, 2, 3, 4 e 5, e parlano della saggezza. Quindi oggi la parola che mi suona è la saggezza, la ricerca della saggezza, e ho pregato oggi con Dio che Lui possa darmi più saggezza. Venerdì ad esempio ho pregato che ho affidato la mia sorte nelle sue mani perché Lui può agire attraverso di me, e questo è stato il mio, ed è un salmo, io l'ho meditato, ho scelto di farlo mio per quel giorno e Dio ha operato. Quindi scelgo delle parole e attraverso questi piccoli step scelgo di raggiungere i miei grandi obiettivi, che sono quelli di parlare di Gesù a tutti e fare discepoli costantemente. Meraviglioso, grazie Mario. Io credo che è molto importante che noi ricordiamo questo, è la base, è l'ABC del credente. Infatti è Gesù che dice: sarete veramente miei discepoli se perseverate nelle mie parole. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se c'è una forza che il diavolo ha nelle nostre vite è la forza della bugia. Lui è un bugiardo, e quando lui riesce a farci credere che le sue bugie sono verità, lui devia il percorso della nostra vita. È per questo che quotidianamente noi dobbiamo confrontarci con la verità, assimilare la verità per rifiutare le bugie. Gesù si è armato della parola quando è stato tentato dal diavolo in prima persona, tu per tu, e ha citato versi della Bibbia a memoria. Se vuoi vincere il maligno, il diavolo nella tua vita, se vuoi andare a scoprire quali sono le bugie nelle quali stai credendo e che danno possibilità al diavolo di sabotare il tuo percorso, allora assimila la verità, leggi la Bibbia. Fallo ogni giorno, non ha importanza se dedichi 10 minuti o mezz'ora, ma è una questione di costanza. E poi il Signore al tempo opportuno ti farà scoprire delle verità che saranno essenziali per la tua crescita di gloria in gloria. Bello questo, è bello che abbiamo così tanti mezzi adesso, anche tecnologici, no? YouVersion è un mezzo, un'applicazione meravigliosa. Possiamo condividere con altri dei piani di lettura e disciplinarci a vicenda nel leggere la parola, perché, ripeto, è fondamentale in quanto è una spada, è un'arma. E se ti senti debole oggi nel tuo cammino spirituale, forse devi rafforzarti andando a leggere più parola. Perché se ti cibi della parola, inevitabilmente la tua forza aumenta e sarai più in grado di conquistare quei territori che Dio ha per te. E insieme, qualche domenica fa, abbiamo imparato un verso a memoria. Ve lo ricordate? Non vi darò un suggerimento, non lo proietteremo ancora sullo schermo, quindi non lo proiettate. E si trova in 1 Samuele, capitolo 17, il capitolo della battaglia di Davide e Golia, e dice al mio 3, lo potete citare voi a memoria perché oramai lo sapete, 1, 2, 3, facciamoci un applauso, meravigliosi, bravi, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Dio ci invita a non scappare via dalle battaglie, perché ogni battaglia ha un valore specifico per la nostra vita e ci vuole permettere di crescere nella fede per affrontare la battaglia successiva. E tu puoi andare di battaglia in battaglia con una forza sempre maggiore fino a vivere la battaglia del re, di Davide, quale re, a favore di altri, quella con il gigante, non più per il proprio gregge, ma a favore del popolo di Dio, se tu non ti tiri indietro dalla battaglia e la affronti con il Signore. Per questo messaggio ho fatto una richiesta alla squadra pastorale, ho detto: mi date qualche nome della Chiesa, di credenti che sapete che hanno affrontato delle battaglie e le hanno vinte, e quelle battaglie, al posto di atterrarli, schiacciarli e farli diventare dei perdenti, ha reso quelle persone più forti, più vigorose nella fede e le ha portate di gloria in gloria. La cosa bella è che la squadra pastorale ha cominciato a mandarmi tanti nomi di tanti credenti della Chiesa, e questo è meraviglioso perché dimostra che tanti di noi sanno che cosa significa quel verso e sanno che la battaglia viene nella nostra vita non per schiacciarci, ma nel momento in cui la viviamo con il Signore, per renderci ancora più forte. E ho voluto scegliere Anna perché mi sta simpatica. Mi stavano simpatici tutti i nomi, però ho letto Anna, ho detto sì, Anna è una voce che dobbiamo sentire, lei è anche un servo del Signore, una serva del Signore meravigliosa, lei supervisiona con suo marito 4 gruppi familiari nella nostra chiesa ed è una benedizione non solo in questa città ma anche in altre città. E quindi Anna, vuoi tu condividere qualcosa sulla battaglia, su quello che il Signore ti ha permesso di vivere e di vincere nella tua vita? Come dicevo stamattina, quando il pastore mi ha mandato un messaggio chiedendomi di condividere un po' le battaglie che ho dovuto affrontare e ho vinto con il Signore, in un momento sono andata in panico, ho detto: che cosa devo dire? Non lo so, non mi ricordavo niente in quel momento, però poi ho preso un tempo con il Signore, ho detto: tu mi devi dire quello che io devo dire. E in un momento è passato davanti a me il film della mia vita. Sono andata a ritroso e ho iniziato a vedere prima ancora che io nascessi, perché ho dovuto lottare ancora prima che io nascessi per venire al mondo, perché mia madre non mi voleva e ho dovuto lottare per nascere. E questo film, continuava ad andare avanti fino a che non mi sono fermata in un pensiero di un giorno in una stanza di ospedale dove ero andata lì per fare, ero al quinto mese ed ero andata lì a fare un'ecografia, e il medico mi guardò in faccia e disse: Signore, non sento più il battito del bambino. è morto. In quel momento io non avevo parole, non sapevo quello che dovevo dire al medico, e lui mi disse: la farò partorire, farà il raschiamento e tornerà a casa. Finito tutto, sono tornata a casa e non riuscivo ancora a capire perché. E ho iniziato ad andare dal Signore, a chiedere perché era capitato a me. Ho iniziato ad avere sensi di colpa tremendi, perché pensavo che la colpa fosse stata mia, pensavo che io non avessi fatto abbastanza quando era il tempo di poter fare qualcosa, e avevo permesso che questo bambino morisse. Ho lasciato andare, però in quel tempo ho comunque voluto continuare a leggere, ho voluto continuare a pregare, anche non capendo, sono andata avanti anche quando il medico, prima di uscire dall'ospedale, mi disse: Signore, lei non potrà più avere figli. Se un giorno vorrà avere figli, dovrà essere sotto controllo, dovrà fare delle cure. E io all'epoca avevo già 3 figli. E nella mia mente dissi: dottore, io non ci penso neanche a dover, dopo quello che ho passato, nuovamente a pensare di avere un altro figlio. Sono passati 3 anni. Un altro test di gravidanza ed ero incinta. Là rimasi un po' sbalordita, anche perché il dottore mi disse: non puoi avere più figli. Però ho iniziato ad avere paura, ad avere timore, perché non volevo più passare quello che avevo passato con la precedenza gravidanza, anche perché il dottore mi disse: devi stare a letto. Non avevo forza, ma io avevo 3 figli, un marito, una casa, dovevo mandare avanti la famiglia. Eppure dovevo stare a letto, dovevo stare seduta, e ho iniziato ad arrabbiarmi con Dio. Ho detto: se tu sapevi già quello che io avrei dovuto affrontare nuovamente, perché? Perché? E c'era una voce dentro di me che diceva: tutto coopera al bene per quelli che amano il Signore, tutto coopera al bene per quelli che amano il Signore. E io continuavo a dire: Signore, cosa c'è del bene? Ho perso un bambino, adesso mi ritrovo di nuovo ad andare avanti con un'altra gravidanza. Non posso fare niente, non posso servire la Chiesa, devo stare a casa, devo stare chiusa nella camera da letto perché ho bisogno di stare a letto. Ma questa voce diceva continuamente: fidati di me, ogni cosa coopera al bene per quelli che credono in me. E ho continuato ad andare avanti, e ricordo una sera ero a letto, non c'era nessuno a casa mia, erano andati a un incontro di preghiera, e in un momento mi sono svegliata e ho sentito una pressione forte sul mio petto e delle voci che dicevano: è colpa tua, l'hai voluto tu, è colpa tua, l'hai voluto tu. Era continuamente, e questa voce mi voleva talmente schiacciare. E in quel periodo mi sentivo sempre più debole, sempre come un pugile che viene messa all'angolo nel ring e continua a prendere pugni fino a cadere in ginocchio. E io mi trovavo in quella situazione. Però c'era sempre quella voce: fidati di me, e ogni cosa coopera al bene per quelli che amano Dio. E in un attimo mi sono alzata dal letto e ho iniziato a proclamare la sua verità. E questo verso è scritto in Romani 3:38, dove dice: nessuna potenza, né altezza, né profondità, né cosa alcuna mi separeranno dall'amore di Dio. Non c'è cosa alcuna che mi separeranno dall'amore di Dio. Ho iniziato a proclamare quella verità e a non credere più a quella bugia che il nemico voleva farmi credere, che io non potevo far più niente, che la mia vita in quel momento era persa, perché io ero lì a letto e non potevo servire il Signore, non potevo fare niente. E quel credere, quel continuare a desiderare, perché ho desiderato ardentemente di potermi alzare, di poter ricominciare da capo, mi ha dato la forza di andare avanti. E il fatto di non sapere a memoria dei versi, ma il fatto di aver letto la Bibbia, il fatto di aver pregato, nel momento opportuno ho potuto combattere con la parola di Gesù. Anche come diceva il pastore Gesù nel deserto, lui è stato tentato, ma ha detto vai via Satana da me. E ha proclamato la verità sulla sua vita. E io ancora oggi, io vivo battaglie, ho vissuto battaglie nel mio matrimonio, vivo ancora oggi battaglia, ma io so in chi ho creduto e so che continuerò a proclamare la sua verità. E se anche tu stai affrontando delle battaglie, è perché il nemico vuole distruggere la tua vita. Noi sappiamo che il diavolo è come un leone ruggente che va attorno cercando chi possa distruggere, e lui vuole distruggere la tua vita. Se tu hai deciso soprattutto di scegliere per il Signore, perché io quando non conoscevo il Signore non sapevo come vincere le battaglie, sono stata sballottata da una parte e l'altra, ma quando ho creduto ho saputo in chi poteva darmi il coraggio di andare avanti e chi ancora oggi mi dà il coraggio di andare avanti, perché ognuno di noi ha battaglie, ma quando mettiamo al primo posto Cristo Gesù e combattiamo con la sua parola, di sicuro vinceremo e non c'è nessuna battaglia che sarà più forte di noi. Amen. Amen, è così. Amen. Vedete il verso che è proiettato ancora alle nostre spalle? Sono le parole di Davide. Quello che Davide dice è il Signore che mi liberò, mi libererà, il Signore, non la mia capacità di combattere, non la mia fionda e le mie strategie di lotta, non la mia esperienza, neanche questo, ma il Signore. E se stai attraversando una battaglia nella tua vita, chi fa la differenza è il Signore. È il Signore che ti libera dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, fino alla mano del Filisteo. È Lui che fa la differenza. E ci sono persone che lo possono testimoniare nella propria vita, nelle cose concrete, quotidiane. Non sono cose che noi leggiamo nella Bibbia e che ci incoraggiamo e ci diciamo l'un l'altro. Sono cose che noi sperimentiamo nel nostro mezzo. Per questo io ti invito a non mollare, se stai vivendo una battaglia, non mollare, perché la vittoria c'è e ti appartiene. E qualsiasi sia la tua battaglia, non ti sentire solo, perché il diavolo cerca sempre di farci sentire delle persone sole che non hanno possibilità di confrontarsi con nessuno che ci possa comprendere. Ma ci sono altri fratelli, altre sorelle che stanno vivendo la tua stessa battaglia o l'hanno vissuta, o forse battaglie ben più grandi di quelle che tu stai vivendo, e loro hanno la possibilità di incoraggiarti. Per questo io quello che vi invito a fare, anche alla luce di quello che abbiamo sentito questa sera, è sfrutta la tua presenza in chiesa, sfrutta il tuo essere parte di un corpo, sfrutta il fatto che tu hai dei fratelli e delle sorelle. Stai attraversando una battaglia nella salute? Oh, ci sono tanti fratelli, tante sorelle che hanno affrontato questa battaglia prima di te. Vai a loro, chiedi preghiera, chiedi come hanno fatto. Stai vivendo una sfida nel tuo matrimonio? Confrontati con coppie che hanno affrontato delle battaglie e le hanno superate. Sfrutta il fatto che in mezzo a noi ci sono persone che hanno fatto scelte radicali con Dio e hanno visto Dio emergere e dare loro vittoria. Stai attraversando una separazione, stai attraversando delle difficoltà nelle relazioni, non rimanere solo, fatti aiutare in preghiera, afferra la parola e confrontati con la Chiesa, con altri credenti, perché tu sei destinato ad andare di gloria in gloria, tu sei destinato a essere un conquistatore anche nelle battaglie più feroci della tua vita. Dio è con te, Lui ti ama, tu sei suo figlio e sua figlia, non sei abbandonato, sei adottato da Lui e Lui ti vuole permettere di trionfare sulla zampa del leone, zampa dell'orso e mano del Filisteo. Amen. Vogliamo fare una cosa, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare questi nostri fratelli e queste nostre sorelle. E vogliamo spendere un tempo di preghiera. Io non lo so quale parte delle condivisioni ha toccato il tuo cuore, forse la parte della rinuncia. Sai, Dio, Gesù ci invita a rinunciare costantemente. Gesù dice, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E la rinuncia è una scelta che tu fai quotidianamente, non è una scelta che fai solo una volta e per sempre, ma io oggi ho delle rinunce da fare per questa giornata. Tu sei qui perché hai scelto di fare delle rinunce. Potresti essere in tanti altri posti, ma gloria a Dio, tu sei qui in questa chiesa questa sera perché hai scelto la parte migliore. E io ti invito questa sera, se senti che lo Spirito Santo ti sta chiedendo di rinunciare a qualcosa, ubbidisci. Perché oltre quell'obbedienza c'è gloria, oltre quell'obbedienza c'è un passaggio di conquista. Forse la parte del messaggio che ti ha toccato nel cuore è proprio quella delle battaglie. Stai attraversando delle battaglie. Allora questa sera puoi afferrare la forza che c'è nelle parole di Davide e dire sì, io posso ogni cosa, in colui che mi fortifica, io posso affrontare la mano del Filisteo perché Dio è con me. Davanti ad ogni sfida, o forse devi abbracciare la maturità, forse riconosci che sei debole, che sei ancora lì a cibarti di quello che ti viene passato, magari l'unico momento nel quale senti la parola di Dio è quando vieni in chiesa la domenica, e allora una scelta che devi fare questa sera è dire io voglio aprire la mia Bibbia, io voglio scoprire e conoscere la verità, io non voglio camminare ancora nell'ignoranza. La parola di Dio dice che il popolo perisce per mancanza di conoscenza e noi sappiamo che viviamo in una società che si dice cristiana ma non sa chi è Cristo è veramente, che cosa lui ha insegnato e che cosa istruisce i suoi figli, i suoi discepoli a fare. E tu lo sai con piena padronanza, sai distinguere il bene dal male, non perché fai parte di una chiesa, non perché segui una religione, non perché hai ascoltato un pastore o un prete, ma perché tu nel tuo tempo personale hai passato del tempo con Dio davanti alla sua parola, a leggere le sue parole. Forse questa è la scelta che devi fare stasera, una volta e per sempre, di non accontentarti di quello che già sai, ma di scavare più a fondo per essere un maestro della parola, al punto tale da poter insegnare e istruire altri a camminare nella stessa vita, come ha detto, nella stessa via, come ha detto l'apostolo Paolo. Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Dio ti invita a conoscere talmente tanto bene la parola da poterla insegnare ad altri. Forse questa è la tua scelta stasera. Qualsiasi sia la tua scelta, io voglio pregare per te. Nessuno di noi è arrivato, non c'è nessuno che è perfetto, nessuno che si può dire completo in nessuna di queste cose. Siamo tutti nella stessa barca. E tutti siamo invitati da quel Padre buono a crescere di gloria in gloria. Se questo è il tuo desiderio, io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e di alzare le tue mani in segno di arresa per dire sì, Signore, io voglio crescere, io voglio andare di gloria in gloria. Pare tu vedi queste mani alzate e ancora di più tu conosci i cuori dei tuoi figli uno ad uno. Tu conosci quello che loro stanno attraversando. Tu sai dove si trovano. Gesù, tu li ami di un amore indescrivibile. Io ti ringrazio, Padre, perché possiamo essere qui ora, alla tua presenza, come figli che stendono le loro mani verso il loro papà, per chiedere a te, Padre, di abbracciarci, di prenderci, di farci tuoi. Padre, siamo qui per dirti che vogliamo crescere. E io voglio pregare in primo luogo per coloro che stanno affrontando una battaglia, nel nome di Gesù, che una forza soprannaturale possa scendere nel loro cuore, che lo Spirito Santo li possa battezzare, riempire in questo momento e che loro possano essere capaci di affrontare ogni sfida, non con paura, non con insicurezza, ma con fede, fiducia nel fatto che tu sei con loro. Io prego nuove forze e sapienza e conoscenza in coloro che stanno affrontando la battaglia, affinché possano sapere come buttar giù quel gigante. Pare che il maligno non possa avere più il diritto di derubare, di ammazzare, di distruggere questi miei fratelli, queste mie sorelle. Io prego il tuo intervento e che il maligno vada via nel nome di Gesù ora, e che vada via nelle situazioni, nelle circostanze, nelle battaglie, e che il gigante sia atterrato per la potenza che c'è nel tuo nome, Gesù. Io prego per chiunque sente nel proprio cuore che deve fare delle rinunce e ha affetto, è legato da determinate cose terrene e non ha la possibilità di elevarsi a gloria, a livelli di gloria superiori, perché è legato da cose terrene. Io prego che questa sera tu possa dare a ciascuna di queste persone la forza di scegliere di rinunciare, perché ne vale la pena. Padre, noi vogliamo rinunciare a tutto, tutto ciò che è nostro vogliamo che sia tuo, tutto ciò che è nostro e che ci lega giornalmente, ci confina una vita limitata, noi vogliamo lasciarlo, rimetterlo nelle tue mani e chiederti di farne ciò che vuoi, perché noi vogliamo seguire te, tu sei la cosa più preziosa. Padre, io voglio pregare per chiunque questa sera riconosce che è debole, che è un bambino ma dovrebbe a questo punto mangiare cibo solido. Io prego, Padre, per maturità nella tua chiesa. Noi vogliamo essere una chiesa matura, Padre. Noi vogliamo essere una chiesa che conosce la parola, che legge la parola, medita la parola, memorizza la parola. Io prego, Padre, in questa battaglia quotidiana contro il tempo, contro l'affanno, contro le attività, contro tutte le distrazioni che ci vogliono derubare del tempo prezioso con te, io prego che la nostra chiesa, che ciascuno di noi questa sera, a partire da questa sera, possa riscattare il tempo per crescere, per essere maestri della parola, per poterla insegnare ad altri, per poter essere dei guerrieri che sconfiggono il bugiardo con la verità, come hai fatto tu, Gesù, e come tu ci hai dato esempio nel deserto. Io prego, Padre, per una chiesa che va di gloria in gloria, perché assimila la parola ed è tutt'uno con la tua parola. Io prego questo nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Amen. Vogliamo fare ora una cosa, vogliamo adorare il Signore insieme. Alza le tue mani ancora, arrenditi a Lui, fai la tua preghiera. Dì: Signore, io ti appartengo, io arrendo tutto a te. Fai ora la tua preghiera, perché Lui ti vede, Lui ti ascolta e ti ama e ti vuole abbracciare questa sera. Forza.